copecce, memoria se parlo mo pecce, più sta nel sangue che facce, finga ma money po facce, you know pink, protecchi, mo mannan, mo gocchi, con tonchi, man taxi, you hot kick, I'm pacci. Tu mo singakke, con la nabdo chorum, chaka chogo mo tanika, chaka kajin ma, so che uso chorum, ngono mi hato ya, aji con chamo. Could you want none of this? Me and none of this, you want it. Man, man, hang your man, and thumb your own. Did you walk into it? I should do. To go on like fire.